Abbiamo sentito sia lei che il primo ministro Rajoy ribadire e riaffermare l'impegno per la stabilità finanziaria, che però dipende molto dalla stabilità dei governi. Vorrei chiederle se si sente preoccupato della minaccia di Silvio Berlusconi di togliere la fiducia al suo governo e quali valuta possano essere le conseguenze finanziarie per l'Italia di una fine anticipata del suo governo. E non sarà mica quella la ragione che le sfugge di questo aumento dello spread da 330 a 350? So che lei è un analista competente, quindi prenderò in considerazione anche questa ipotesi alla quale non avevo pensato. E, ancorché sia molto complessa e problematica la materia degli spread, come sappiamo. Ma guardi, io fermerei la domanda all'uso del sostantivo che lei ha fatto, minaccia. Minacce di ritiro della fiducia a questo governo non possono essere fatte, non perché non possa essere ritirata la fiducia, ma perché non lo vivremmo come una minaccia. Siamo stati richiesti di dare un contributo in un momento difficile per il paese, chi volesse ritirarci la fiducia, magari con ottimo fondamento, non tocca a noi giudicare, noi ci impegniamo al meglio e pensiamo di stare avendo buoni risultati. Ecco, sono valutazioni che competono ad altri, quindi non posso chiamare minaccia qualche cosa che a noi, credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi ministri, non toglierebbe niente, se non un'attività di governo che non è stata da noi ricercata.